38 ho acceso il portatile e sentivo solo Attino. Già, non ho HF, che Attino non ho HF, può farvi già. Attino è già a metà strada, vattemi, è già in un buon punto. È già un bel pezzo di strada da me. Ma senti, non ho solo la noce. Sbagliando. Sono tutti non nella BDVD, ma Buffani dice, però a te, con chi c'è bottezza. Ero tutti solo così al posto della luce. Vabbè. Oh, io sento male, o sono io. Cosa hai toccato? Io? Ehi, c'hai un cosa sotto, cosa hai acceso? Niente, non ho acceso proprio niente. Il portatile l'ha acceso e l'ho spento. Ho voluto fare una prova. Spegni il portatile un attimo, va bene. L'ho spento il portatile, ma non c'ho niente acceso. Anche perché ho solo questo l'apparato, non ne ho altri. Poi il portatile. Che roba, Cristian, dove sei arrivato? A Domo. In cortile, sì. Ma sto uscendo male qua. No, c'è un fruscio sotto, boh. Ma c'è ancora il tuo fruscio, non lo so, boh. Il fruscio è, boh. Non lo so, ma già attaccato nulla. Ma ora va bene, oggi. Adesso va bene. Va bene, va bene. E adesso bisogna che me ne prenda altre due o tre di cose, di batterie, di quelle della Dura, che sono le migliori. Così almeno ce l'ho di ricambio, che tanto i microfoni non vanno, le cambio direttamente. Esatto, di quelle della Dura, che sono molto molto meglio. Ho comprato quelle di Eurospeaker che si scaricano subito, durano pochi mesi e poi si scaricano. Io sono Dura, c'è il mio microfono, pure, vedi tu. Lo so, e quanto la paghi di Dura? Sai che non mi ricordo, perché ho comprato un po' di roba, c'è un mese e mezzo, facciamo qualche cosa, non te l'ho pagato neanche. E costano 3 euro e qualche cosa, 3 euro e 30, ma cosa del genere. Ma io le prendevo a Porto Torres, da coso, come si chiama, un negozio di elettricità a Bitticino, lì, andavo, e praticamente le pagavo molto meno. Io già ho l'alcaline nel pane più 3, un po' vicino a 2 anni, e funziona sempre. Sono buone quelle, no? Alcaline è il tipo di batteria, però la marca che cos'è? Marta. Le Marta sono più o meno, sono come le Duracell, sono buone. E io ho preso un Panasonic che prendevo, che li vendo qui al discount, prendono le Panasonic, perché non ne hanno di quelle buone. Devi andare a pagarle di più. Allora, quando sono lì mi compro quelle. Ma solitamente io usavo Duracell prima. Cosa serve il cursore che c'è l'ultimo di tutti, giù in basso, NB Level? Te l'ho già spiegato, devi metterlo al centro, perché quando ci riesci l'NB1, che è un attenuatore di rumore, un noise blank, quello deve rimanere al centro, perché se è al massimo ti distorce la recezione. Non me lo ricordavo, non ho toccato niente, lo stavo solamente guardando. NB Level, anche lui ce la parola adesso, livella il noise blank, il livello del noise blank, capito? Però tienilo sempre al centro, come te l'avevo detto io, lo metti al centro e puoi inserire anche l'NB1 quando c'è il rumore, e così non ti distorce la modulazione, perché se quello lì è al massimo ti distorce la modulazione. Ma l'NB1 l'avevo tenuto schiacciato o no? Dipende, se c'è i rumori, scariche, quando passano le moto, quelle cose lì ti attenua. Anche i baracchini, anche quando ci sono quei baracchini modificati di settimana. Cristian, se mi ascolti ancora? Ti ascolto forte e chiaro. Ma dove sei adesso qui? A casa, nel piazzale, insomma, che sto a tratto. La tavola è... Non so se è Porto Torres, dai. Sì, all'inizio è Porto Torres. Sono a metà strada, tra Sasso e Porto Torres. A metà strada, tra Sasso e Porto Torres, ho capito. Sono qua, Ripeta. Meglia. No, sto mettendo un po' il collirio, perché, boh, non so, facevano le rucchie, non volevo che... Sai, io sono... soffro un po' di questi dolori, poi mi si gonfia. E poi... contaminarlo. Ma allora, mi sta succedendo che quando guardo il televisore a volte mi brucia l'occhio, mi brucia proprio, devo mettermi il collirio perché sennò mi brucia. Ma non lo so, io sinceramente parlando non è frequente la cosa, però ogni tanto mi sembra che ho tipo un granellino di sabbia nell'occhio, e quindi se non mi metto il collirio mi si diventano gli occhi rossi rossi e poi mi si gonfiano, invece così lo calmo subito e va bene così. Cristian, sei arrivato a casa? Cappa, tranquillo, beato, adesso vado a casa a Calduccio e niente, vale. Quella spurgizia che si forma all'interno dell'occhio e con i laser lo eliminano. Non so, diciamo che non stavo facendo cose, insomma, ci ho tagliato un problema stamattina, ma non penso sia quello, può anche essere. Allora, io una volta che sono andato dall'oculista mi ha detto che era quello, che si poteva fare il laser, però lui era contrario perché a volte quando uno era, ce n'avevo solo un granello, se tu spacchi quel granello si fa mille pezzi, a volte e ti dà più disturbo che averne uno solo. Se non si riesce a eliminarlo del tutto si spacca, si apre come faceva il mercurio, no? E si espande in tutto l'occhio. Quindi lui evita sempre di farlo. Ma sono qui, sono esperto di uno di schiaggiaviglio che sono io, eh. Sì, è ancora per l'otto giro, 100 euro. Vai, Eugenio. Ehi. Ragazzi, devo più dopo lasciare perché sono 7:30 e io devo andare a cenare e mi devo mettere sotto le coperte. Che devo un attimo, anzi, stanotte devo entrare a lavoro. Ciao ragazzi, a più tardi. Ciao, a più tardi, a domani. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao G, ciao, buona carica quando la fai, ci sentiamo, avanti Claudio. Ciao, ci sentiamo oggi alle prossimine. Eia, ciao G, ciao, buona carica, buon tutto, buon lavoro per domani. Vai G. Buona carica, buon tutto, cose. Ma fate scherzi, questo giro di occhi io. Prima mi giocava a Ballucci, l'ultima volta ho dato sera la tua gli occhi. Vabbè, ma a me, ti ripeto, non è frequente la cosa, però ogni tanto qualche granellino lo sento e quindi mi dà fastidio. Ma fa anche a me, devo sviluppare, ma tranquillo. Ho cambiato il nuovo radio, sto andando col 433 porta la radio e ti. Sì, infatti te lo volevo dire, perché quando sei entrato a salutare Eugenio eri troppo quasi per strappare, ma appena, abbassa appena. Aspetta, mi sto inchinando, perché non vedo. Dovrebbe essere così, va bene, ho troppo alto ancora. No, vabbè, ti sto ascoltando con 5.5, va bene. Salta la colonia, anzi fai vibrare il microfono, se trovo la mano. Il 430 mi aveva detto che non farò, ma voglio regolare bene, allora è 1:30. Ecco qua, l'ho messo a 1, va bene così? Guarda, non ha cambiato niente, lascia così che va bene. Da 1:30 non ti credere che va bene, non sta distorcendo, è la tua. Io ho abbassato il volume, così a Romacco lo regolo bene. No, adesso l'ho messo a 1, dai. Ho messo a 1 perché era troppo alto. Già va bene così. Va bene, va benissimo. Perché magari ogni tanto quando mi sposto in banda laterale o da qualche parte tocco il microfono, tocco il naggio 3 e va regolata. Questa deve essere regolata bene, però eccola qua, sono in cuffia, dovrebbe essere così, noti? Va bene, lascia così. Io lascio stare così, dai, andare. Vedi Gianni, adesso sta lavorando di meno l'amplificatore e se ne è sceso a 500 ora. Come mai se ne scende? Chi lo sa, i condensatori sono nuovi, le valvole diciamo che sono quelle che sono, non so quanto hanno, però le ho provate a cambiare e fanno la stessa cosa. Ma è tu o quello te l'hanno prestato? No, me l'hanno regalato. Ah, ecco. Che ben diverso. Sì, questo me l'hanno regalato, un bel regalo. E infatti non fa neanche a... lo volevo migliorare, nel senso che volevo capire qualcheduno se lo conosceva, perché faceva questa cosa qua, se è normale o meno, capito? Non lo so, boh. No, io il Galaxy non l'ho avuto, ho avuto il Jumbo Aristocrat e basta. Il Galaxy non l'ho avuto, non lo conosco bene. Ma il Jumbo ti assicuro che abbassava le luci di casa quando parlavo, era a casa di mamma allora. Hai visto quello che c'ho io? Che ho comprato usato, nuovo, accanto alla scatola, sì. Jumbo, questo è il Jumbo AMFM SSB CW, Base Station Power, la prefica dell'ARAM, Jumbo dell'ARAM. C'è anche il preamplificatore d'antenna, è l'ultimo che hanno fatto, nuovo. No, non l'ho visto, ma voglio dire, non so se è una caratteristica del valvolare che dopo un po' che non lo usi magari le valvole, perché sapete benissimo che ha una ventola per raffreddarla, no? Quindi se tu continui a fare un passaggio lungo, pian piano sale fino a raggiungere la massima potenza, però dopo un po' che stai per dire, che ne so, anche due minuti, un minuto in stand-by, che la ventola raffredda le valvole, quindi se ne riscende di nuovo. Non so se è normale oppure è un difetto, capito? Guarda, se le valvole sono buone non scende, perché il mio sono nuove. Però, allora, il tuo dove c'era la ventola? Dietro oppure sotto? Il mio c'era sotto la pancia la ventola. No, il mio c'era dietro. C'era dietro, invece questo di ultima generazione c'era sotto. Non so cosa dirti, questo mica l'ho fatto io, abbiamo visto con Fabrizio che i condensatori sono stati cambiati recentemente perché sono anche nuovi e sono anche leggermente più grandi dell'originale a quanto mi ha detto. Ma ce n'è per i pulsi, va benissimo, si sente anche bene il radio. Sì, no, non è che sto dicendo quello già, però voglio dire, sono riuscito a farlo andare anche a 750 watt, no? Proprio provando. E poi cosa succede? Per farlo salire in fretta io mi devo spostare di canale e dare colpe di importante, per dire uno ogni un secondo, due secondi, allora devo dare la portante e lui inizia a salire. Quando sale, che io lo accordo bene proprio sino alla massima potenza, adesso per dire sta facendo, non so se sono i picchi positivi o negativi adesso, perché non sono un po' distante, quindi non so se sta accordando, ma man mano che io faccio un passaggio come questo, che lo sto facendo un po' più lungo, va a raggiungere la massima potenza, capito? Dopodiché io mollo e lascio un minuto, due minuti di bianco, che non sto più parlando, allora se ne va nuovamente ai 500, capito? Fa da 500 a 700, 750, dipende. Guarda che onda te l'ho fatto, ma tu hai 4 valvole, il mio è 3 valvole, il mio ne va 500 in AM, 450, 500, lì. Mondo laterale, vento, ma 600, capito? Però è così quello, è 3 valvole, una pilota più 2, invece tu hai 4 valvole. Io ne ho una pilota e più 4 valvole. Vabbè, 5, 4 valvole, 4 valvole, sto dicendo quelle che lavorano. Invece il mio è 3, 2 più 1, capito? Quindi, diversa potenza, ma guardate quanto la foto, è nuovo, bellissimo, eh? Sono collegato sul Galaxy. Ce l'ho collegato sul Galaxy, capito? Non lo uso mai il Galaxy, comunque è collegato lì. E qua su questo no, c'ho quello che è sotto. Quello che è sotto è HF, quello che vedi sotto quello lì. Quello lì è quello HF 030, quello lo uso, quello è un bestione. C'è poco umano, in mano avanti il DL922. Bello, sì, già ho visto. L'altro è un mostro, l'altro c'è sotto, quello grigio, quello è quello HF, quello è 0,30, quello è un kilowatt e più. Va bene, bello, però hai visto, nuovo, c'è anche, quando ho fatto la foto spenta, quando va in trasmissione, quello grafico che ti segna i picchi di modulazione che sto erogando, capito? Sì, sì. Vedi Gian, adesso è a 500, però va in modulazione, ola, ola, va appena più avanti, capito? Non alla massima potenza. Probabilmente, sai cosa, come tu vai in stand-by, la ventola raffredda le valvole e abbassa per quello, poi tu come riparli, le riscaldi di nuovo e ti dà più watt, sicuramente così. Sì, anche io l'ho pensata così. L'importante è che però non va, perché sennò tocca sempre stare, è noioso sempre stare lì a cordare. Una volta che lo accordi lo lasci così e basta. Quando scende e sale, che non cambi la radio, ecco. Guarda, questo sistema, infatti sto operando proprio io, ma quel sistema della ventola sotto la pancia raffredda, ma allo stesso tempo non ti fa abbassare la potenza, mentre sul duetto aspia proprio sul lato della valvola e ti abbassa anche la potenza, capito? Mi ha mandato anche a te Gian. Guarda, no, questo è un Jumbo della CTE, l'ultimo che hanno fatto, che non so se li fanno ancora. Sotto vabbè c'è l'altro lineare amplificatore HF, ma non c'entra niente quello. Va bene, va bene. Poi non è molto affidabile quello che segna il watt, che è al frontale, dai. Non è molto affidabile, però già ho il wattmetro esterno che mi segna il watt che sta erogando. Ah, quelli sono giusto per accordare. Quando usi l'amplificatore, a me mi hanno insegnato ad usare sempre lo strumento esterno, sempre, perché quello va bene per fare la cordata e va bene, ma poi i watt effettivi non li segna giusti, capito? Se vado a usarlo, quello quando è fermo sul 200, si ferma a 200, va a picchi di modulazione a 300, ma io sono già oltre 350 watt sul wattmetro esterno, quindi non sono affidabili. Guarda, se trovo, ecco qua, guarda, aspetta, ti mando, e poi ci zoomi sopra quanto stai erogando, aspetta. Ottimo, ma sempre la mantova tu c'hai. Cosa? Hai sempre la mantova, la stai usando con la mantova 5. No, con la 1. Claudio, ti mando questa foto, guardatela, e zoomaci sopra. Sì, l'hai visto già con l'amplificatore? Guardalo già che bello è. No, gli hanno regalato, Claudio. No, non è mio, quello che ho mandato io a te, guarda. Uguale, lo stesso Jumbo dell'Alan, della CTE, nuovo, ho pagato una coglionata. Già, ti ho mandato la foto anche a te, va. Zoomaci sopra e così vedi quanti watt saranno, va. Quasi 750, va. La capito 101, che poi insomma è preciso così in kilowatt, sì, vero, posizione kilowatt, va bene, 5 valvole è così, cioè 4 più 1 è così, però è tra la 450 a questo, che ne ha 2 più una pilota, 3 valvole insomma che lavorano, quindi capito, perciò è così. Ma il sistema questo c'è la ventola sotto e io quando è in stand by la potenza rimane quella, come pigiolo il PTT rimane la stessa potenza, capito? Non calami. Sì, ma potrebbe essere una cosa risolvibile, nel senso che se io da chi di dovere faccio fare un lavoro in, così diciamo, e metto un tastino per eliminare la ventola e farla accendere quando voglio io, la potenza rimane sempre così, capito? Senti, cazzo, ma devi stare attento. Quello è un lavoro che è stato fatto perché quando tu vai in trasmissione la rubrica scalda, quindi deve essere raffreddato automaticamente. Se fai un passaggio lungo, cazzo, ti si crepa la valvola. Ho detto, se faccio un lavoro in da chi di dovere, nel senso che la ventola si deve spegnere quando non è in trasmissione, e invece questa è sempre diretta, hai capito? Ah, certo, lavoro con un relè, un termostato, qualcosa, dal momento in cui tu vai in trasmissione, è così, capito? Ad esempio la caffè che ho io, è mica sempre diretta la ventola, assolutamente, è già 2.875 mi pare, adesso mi ricordo le valvole, quali sono, che sembrano due fondi di bottiglia, ne ha due solo, grandi. Quello in stand-by non senti niente, quando schiacci la portante si va in funzione la ventola, quando tu molli la ventola si stacca, capito? E la potenza rimane sempre quella. Infatti, volevo fare una cosa del genere, ma sinceramente tanto non è che lo sto utilizzando con questa radio giocattolo, quindi non è che mi fai più di tanto. Vabbè, va bene. Belli tutti e due, là. Ma Tino, quello lì, quello che mi hai sentito, un vasometro, non è della ZG quello che stai usando? Quello è uno delle stazionarie, è un vasometro, sì, l'HP2001. 201, comunque è bella, che quello di Claudio è molto bello, nuovo. Sì, ma no, vabbè, questo qua è un pochino più vissuto, però l'importante è che va. Vabbè, c'è lavoro, lo fa. Sì, poi vabbè, dove ha le maniglie, per dire, diciamo che pure di prenderlo, ma è un po' graffiato dove sono le maniglie perché ha una striscia bianca, ma sono cose che le puoi riportare volendo. Vabbè, dai, comunque è funzionante, interessante, è quello, il suo lavoro lo fa, lo puoi sempre riprendere, dice, lo vuoi fare. Sì, ho sentito, ti mi sono tanto, mi ha chiamato, sì, ma è così, se tu fai quel lavoro lì, come è un lavoro che chi lo sa fare lo fa anche bene, con velie, termostato, insomma, fa un lavoro fatto bene, la caffè c'ho io, quello grigio che è sotto quello della CTE, quindi quando tu schiacci la portante va in trasmissione la ventola per far sì che chiaramente stai trasmettendo della valvola, le valvole vogliono essere raffreddate, quando molli la ventola si stacca, così deve essere quello, capito? Sì, infatti, era una cosa che avevo studiato, insomma, per farlo fare, ma poi sinceramente io non ho una stanza di vita, io sono nella sala grande, tu lo sai dove c'è la radio, quindi non è che è un po' posticcia la postazione, ecco, non è una cosa così come ce l'avevo principalmente, diciamo. Vabbè, se non c'hai sala radio così come c'ho io, insomma, ci abbiamo tutti, che sì, io lo stesso via Pascoli ero così, avevo le radio nella camera di mia figlia, poi quando sono entrato a Carbonazzi c'avevo la cameretta mia, ho fatto la sala radio qua, ho fatto tutto proprio per avere lo stesso, la stessa cosa, e allora poi insomma fare le cose che vuoi, ma quando sei così ti devi adeguare, vabbè. Io è perché ti isoli, se no non avrei fatto che tu giaccia le mani d'oro, una bella casa in legno prefabbricata fuori, e ti avevo buttato tutto pure. Ma vai, che sono meglio qua, non ne frega niente, lo stai lì isolato, famoso, ma lascia perdere. Qua bene o male sono in sala, vedo i figli, vedo, cioè, sono a casino, però non ne frega niente. Il sistema che ti isoli, capito? Io stesso qua sono alla stanza, però sento, vedo, ogni tanto entra il cane, entra l'aria, entra, insomma, sì, a casa, perché sennò diversamente io questa qui non avrei fatto assolutamente niente, ce ne ho altri 50 metri quadri fuori da usare, capito? Avrei potuto fare una bellissima cosa lì, tutta proprio con un salottino, tutto quello proprio che serve, il bagno, tutto, capito? Ma non mi interessa, non posso adibire a 50 metri quadri che scemo in appartamento per papponire il radio. Va bene qua, ma la stessa cosa che avevo prima, la stessa base, le stesse cose. Va bene così, alla grande. Vabbè, dai, doppio rutti va a Romobile, Sara, all'armadio, se buona, dottor Trento, arrivederci e buon viaggio. Si goca, dire un microfono, qua un microfono, ma lo cavo da un po' la tua voce. E vabbè, poi intanto si spolvera tutto quanto, è tutto a posto. Allora, è così, è più poco. Che ricordo la mia prima stazione era così, poi altre comunità, perché allora volevamo sino alle bulle 4, 5 la mattina, ho preso un tavolino basso con le ruote già vicino al letto, ma allora non facevo altro che siccome ho dormito diciamo, la prima, no? Quindi quando chiudevo la tenda non si vedeva niente. Quando dovevo modulare aprivo la tenda, me lo tiravo verso il mio letto e poi invece da lì l'ho spostato, però era comodo. Io non ti sto vicino, abbiamo parlato in due, io quando ero andato a casa che avevo la sala radio diversa da questa, che avevo le due basi a L, che era tutto pieno di radio, e quando dovevo pulire, perché non volevo entrarci nessuno, era un casino, ci mettevo anche giornate intere per smontare tutto, pulire, spolverare, ricollegare tutto, ma mannaggia più gana. Adesso c'ho una base con i due piani, tutte le linee Kenwood sotto, con gli HF, le linee VLU sopra, il Galaxy e basta, boh, non pongo più nulla, gli amplificatori, vabbè che sono un angolo, ma quelli li stacco il cavo, li metto per terra, pulisco e poi li rimetto. E te ne ricordi che ma prima dove ce li avevi le radio? Incassate nel muro, in quel mobile a muro. E allora, già ti ricordi tu, non ci conosciamo la vita. E cazzo, non sono arrivato per i carbonati, già era l'unico angolo che è disponibile. Ti avevano messo il tuo angolino. Eia. No, qua io col mobile sinceramente l'ho fatto perché la mia ex moglie non gli piaceva vedere le cose in vista, che non gli soffusava gli apparecchi e quindi non le voleva manco vedere, allora abbiamo fatto questo mobile qua e adesso vabbè mi è rimasto e rimane così. Va bene, ordinatissimo, già va benissimo così, a casa tua vai subito in piazza. Io inizialmente lì, perché avevo due stanze da letto, quando sono arrivato a Carbonati, abitavo al nono piano, avevo solo due stanze da letto, capito? Avevo la camera da letto mia e la camera da letto di Ilaria. E qui poi avevo questa resega nel muro e mi ero messo lì dentro. Poi invece quando ho venduto quella nono piano e ho preso quella del secondo dei miei suoceri, le stanze da letto erano tre. E quindi una piccolina me l'ho presa io. Qua ce ne sono quattro addirittura, quindi a voglia. Ce n'è di spazio. E vabbè. Cappa di Rosmetro, vai ti. Io invece quando ero qua, ho iniziato a essere qua che non avevo figli, insomma, avevo una camera non tanto grande, che sia 3,50x3,50, una cosa del genere, avevo fatto una sala radio, però cosa succedeva? Che io ero lì chiuso, e mia moglie magari mi guardava la televisione, la mezz'ora, mi stavo un po', tra virgolette, chiudendo, lasciandola da sola, non andava bene. E allora, poi vabbè, sono iniziati a avere i figli, vabbè, ho messo tutto quanto in sala, le antenne mi venivano anche metterle per comodità da fuori, facevo il buco e ce l'avevo già dovevo la radio, capito? Nell'altro senso invece avevo fatto tutto sotto traccia e ho messo quattro cavi grossi, allora avevo il 58, l'RG8 e praticamente era tutto sotto traccia, non si vedeva niente, avevo solo una scatola di derivazione dove io potevo attaccare qualsiasi cosa, capito? Qua invece adesso ho fatto un foro che ci passano tre fili, ma non è che si veda perché sono coperti da una mensola più che altro, e quando sposto perché ho un carrellino, no? Un carrellino non lo metto a L con la scrivania, se no se lo lascio per dire praticamente tutto in linea, non si vede niente. Gappa, ti ricordo che quando si è arrivato lì non c'era niente, c'era la stanzetta, mi ricordo, la stanza da letto, non c'era la carta, solo non era così, tutte le cose che hai fatto. Sì, ti lamenti, no? L'unica cosa mi ammetto io che sono rimasto lì a dove è la veranda. Ma allora non ci abitavo neanche io qua. Questa era una casa per arrusti. E non ricordo, c'era solo una grande, la veranda, il bagno. Me la ricordo perfettamente, infatti non ci abitavi proprio tu lì. Andavamo a fare i spuntini, abbiamo fatto dei puntini in kiwi, invece belle cose, belle corti. Avanti già. Io c'ero andato una volta solo a casa di Tino, mi ricordo che ce l'aveva, gli apparati ce l'aveva entrambi nella sala e poi c'era quella specie di abito, che cos'era, forse era una stanza, non mi ricordo, ce l'aveva lì sulla scrivania. Sì, sì, diciamo, c'era la scrivania dove c'era il computer, poi al fianco una sorta di, allora avevo solo la cosa però già, solo la mensola, avevo la linea, e invece adesso nella mensola ho messo l'amplificatore e invece le radio, cioè un carrellino che mi ha risposto alla mia comodità, diciamo. Io questo mobile che ho c'ha le ruote, solo che praticamente a furia di muovere le cose la gomma si è consumata e non girano più bene come devono, ma mettendoli le ruote nuove è molto comodo, perché tu lo sposti, te lo avvicini al letto, tranquillo, ce l'hai a due passi da te e poi lo rimetti al suo posto. E quando chiudi tutto lo metti al suo posto, sembra un mobile, perché addirittura questo mobile me l'ha fatto Mastro Giulio, però la mia ex moglie gli aveva fatto mettere le manopole e siamo andati da Pedro dove avevamo comprato la stanza e si è fatto mettere le manopole uguali, identiche, anche se Giulio ha detto che non ne avrei trovato, che non avrebbero fatto, invece me l'hanno fatto, me l'hanno mandate entro una settimana, mi hanno mandato queste le manopole uguali alle altre che c'erano negli altri mobili, capito? Per non sfigurare. Ma che bello quel mobile, già va bene. Ora dai, io mi allontano, sono le 8:10, preparo la cena e poi c'è la partita, mi guardo la partita, c'è Milan Juventus, mi trascineggio nel divano davanti a quel grande video, mi guardo la TV. Vi saluto, un abbraccio, ciao Gianni, ciao Tino e tutti quelli che sono in ascolto, se ci sono. Ok? Un saluto a tutti, a domani. Ciao ciao. Ciao ciao Claudio, buonanotte dai, e buona carica quando la fai, anch'io sto andando via, devo portare giù il cane, non mi ero reso conto che ce l'ha fatto ora. Passo tutto a Cristian se c'è ancora e poi fa girare il tortino, avanti. Cristian deve aver chiuso, avanti Tino. Ehi, va bene dai, già, io rimango ancora qua, mi guardo le cose al PC e poi se c'è qualcuno che vuole entrare siamo qua. Va bene, buona passeggiata, buona carica, buon tutto, dai, ciao a tutti e due. Ciao ciao, ti ci sentiamo. Ehi, ciao ciao.